Hadith numero 17. Da Abu Ya'la al-Shaddad bin Aus, che Allah si compiaccia di lui, ha trasmesso di avere udito l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, dire: in verità Allah ha ordinato di fare ogni cosa nel migliore dei modi. Quando uccidete, fate l'uccisione nel migliore dei modi, e quando macellate, fate la macellazione nel migliore dei modi, e ognuno di voi affili la sua lama e non faccia soffrire la bestia che deve essere macellata. L'ha riferito l'imam Muslim.